Sostanzialmente la linea del governo di mettere delle pezze nel momento in cui riscoppia comunque il numero dei casi, quindi appunto soprattutto la pressione sugli ospedali sembra essere aumentata notevolmente nelle ultime settimane, non sembra distanziarsi più di tanto da quello che è stato il primo intervento durante, diciamo, la scorsa primavera, il che dimostra da un lato la totale impreparazione anche in termini di strumenti e come renderli strutturali o comunque più efficaci in questo secondo momento, diciamo, della pandemia, e dall'altro però capisco chiusure limitate, poi appunto non si parla per esempio del tema geografico, cioè stiamo chiudendo tutto di nuovo allo stesso modo senza una discriminazione tra territori più o meno colpiti, cosa che invece è stato fatto per esempio prima in Spagna ma anche in parte in Francia, nonostante sia tutto non sotto controllo. Ma dall'altro lato mi chiedo quanto una piccola palestra di provincia, che magari in questi mesi ha fatto anche investimento per dotarsi di tutte le norme, chiudere gli spogliatoi, insomma tutti, diciamo, i momenti in cui ci può essere o ci poteva essere un rischio maggiore, sia più pericolosa che un'azienda di cui non sappiamo ancora nulla e non riusciamo a capire se ci sono i controlli o meno dentro fuori le aziende e così via. Quindi appunto questa, diciamo, chiusura di una parte dei servizi, che da un lato può essere legittima ma dall'altro non se ne capisce la ratio, lascia un po' a intendere che appunto non ci sia una vera consapevolezza, non ci sia stato un salto di qualità nelle misure né di prevenzione né di controllo ex post da parte del governo. Il Premier Conte ha detto di voler salvaguardare allo stesso modo salute ed economia. Iniziano a essere sempre più le voci di chi chiede un reddito di emergenza, un reddito universale, e si parla anche di patrimoniale. Tu hai parlato di interventi strutturali. Cosa servirebbe per un approccio alla pandemia che in realtà poi non si sa quando finirà e soprattutto aggrava problemi già esistenti? Bisogna in qualche modo uscire da questo collo di bottiglia, per esempio del reddito d'emergenza to court, che sono pochi soldi e non mettere insieme economiche e quindi sociale la maggioranza delle famiglie più deboli e vulnerabili, come a dire, perché è vero che va bene estendere la cassa integrazione, ricordiamoci la cassa integrazione alla fine è lo Stato che mette i soldi alle imprese, il problema per esempio che abbiamo sulla struttura, sulla parte produttivo che sta entrando in lockdown, e quindi penso alle palestre, penso alla ristorazione e così via, dove il lavoro sommerso è enorme, 600 euro e non si sa con quale continuità di reddito, visto che oggi si è parlato di una tantum, possono effettivamente risolvere nel breve periodo, non dico neanche nel medio, una situazione sociale, una tensione sociale che a ben vedere è latente in questo paese e che poi viene cavalcato ovviamente dalla destra in modo becero. Ora, da questo punto di vista, secondo me ci sono due o tre cose che si possono fare, ovviamente ripensando per esempio tutta la manovra della legge stabilità che è in discussione, quasi approvata, diciamo, in queste settimane, che da un lato è davvero dare reddito e soldi a tutte le famiglie in difficoltà, e il governo ha la capacità attraverso INPS e l'Agenzia delle Entrate di sapere di ognuno di noi tutto e quindi appunto quali sono i nostri bisogni eccetera, perché 600 euro che poi vengono pagati, trasferiti direttamente per esempio sotto forma d'affitto da parte delle famiglie ai proprietari, diciamo, degli immobili, significa che queste famiglie rimangono a zero di reddito, quindi un trasferimento di reddito che può essere diretto ma che dovrebbe essere anche indiretto. La questione affitti non riguarda solo gli esercenti, riguarda i lavoratori, i piccoli imprenditori, riguarda tutti gli esercenti, come ci siamo detti, e su questo si può operare in modo discriminatorio, nel senso di dire: se tu stai pagando l'affitto a una persona che vive di rendita e quindi rendita ne ha tanto, io ti blocco l'affitto e non risarcisco il proprietario; se invece stai pagando l'affitto a qualcuno che magari è già in cassa integrazione o ha soltanto quel poco di reddito che gli viene dall'affitto, allora io ho la capacità, incrociando i dati delle agenzie delle entrato con quelli dell'INPS, di poter dire: blocco l'affitto, diciamo, la persona che è in affitto, ma trasferisco da parte dello Stato le risorse al proprietario, perché magari il proprietario ha soltanto quel reddito, perché magari è in una fase di disoccupazione, perché magari lavorava in nero, perché magari tutte, diciamo, le complessità delle condizioni economiche delle famiglie. Questo secondo me è, diciamo, uno degli atti di redistribuzione interna, che non è ancora una patrimoniale ma è comunque redistribuzione che si può fare e si doveva già fare secondo me anche nella prima fase. E dall'altro lato però appunto abbiamo il tema che le attività produttive stanno andando avanti tra quel che si dice un'estensione della cassa integrazione, ma c'è tutta la partita sui salari, sugli orari e anche sul numero, se vogliamo, degli addetti per esempio alla sanità, che mancano. Quindi di nuovo, come si crea occupazione e come si garantisce reddito, anche sollevando da pressioni secondo me enormi che stanno subendo i lavoratori della sanità. E quindi, diciamo, misure che sono da un lato assistenziali e da un lato potrebbero essere strutturali, perché l'investimento intervento in sanità deve essere strutturale, perché non è soltanto una questione di pandemia, ma noi abbiamo un problema nella, sappiamo benissimo, la sanità territoriale che comincia a mancare e quant'altro, e dall'altro appunto riequilibrare in qualche modo i flussi di reddito tra il reddito che serve alle famiglie per soddisfare appunto bisogni primari, non stiamo parlando di lusso, ma andare ad aggredire direttamente le rendite, che poi questo debba tradursi e dovrà tradursi prima o poi per pagare deficit e debito futuro in una patrimoniale forte e progressiva, ovviamente è un dibattito che dobbiamo cominciare a fare con serietà, senza appunto diciamo gli schiamazzi contro che abbiamo avuto nei mesi precedenti. Il realismo politico ci impone che domani mattina dobbiamo salvare le condizioni materiali, quindi anche emotive o psicologiche, delle famiglie che si ritroveranno senza un lavoro o comunque in una situazione di disagio reale.